Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Compie un anno giorni il magazine online di Coca-Cola con cui il colosso di Atlanta ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione aziendale, perché se i brand sono i nuovi editori, come abbiamo detto più volte, i contenuti, le storie e le notizie sono la nuova forma di pubblicità. La spesa a impatto zero incontra la bicicletta. Vi raccontiamo la sfida di Cortilia, primo mercato online di prodotti agricoli, che in una città, Milano, e in un periodo, quello natalizio, tosti entrambi, avvia la consegna a domicilio a due ruote. Torniamo a parlare di wearable device, di tecnologia indossabile con un braccialetto smart che non serve a tracciare le nostre attività quotidiane, sportive o meno, bensì a fornire tutte le informazioni necessarie in caso di emergenza. Un progetto tutto italiano, un bel caso di successo da raccontare. E poi spazio per il focus sui trend ai consumi iperlocali con la riflessione finale dedicata all'arte. Tutti hanno una storia da raccontare e Coca-Cola, già alla fine degli anni 90, ha fondato una rivista aziendale dal titolo Journey per raccontare le sue storie di vita quotidiana, di avvenimenti epocali, di felicità. Con 1 milione di pagine viste, il magazine online firmato Coca-Cola festeggia il primo compleanno dell'edizione italiana, il terzo di quella global, 18 le edizioni nel mondo, 40 quelle previste entro il 2016, a conferma di una tendenza, quella del corporate storytelling, che per i brand diventa sempre più importante. Molte grandi aziende hanno cominciato a pensare come delle vere e proprie media company, realizzando progetti editoriali. Non basta più solo comunicare il prodotto, bisogna offrire storie da condividere in cui il consumatore possa riconoscersi o riconoscere il proprio stile di vita. Quello di Coca-Cola è un caso che fa scuola, ne abbiamo parlato con il direttore comunicazione di Coca-Cola Italia, Vittorio Cino. Sono numeri che noi non avremmo pensato di ottenere, ovviamente sperato ma non pensato, invece le abbiamo ottenute, segno che lo strumento funziona, è molto apprezzato dai nostri visitatori digitali che hanno, credo, accolto con un grande favore questa trasformazione avvenuta al nostro sito web, che da semplice e normale sito web corporate si è trasformato in un vero e proprio magazine online che ha il compito di, attraverso un linguaggio appunto di stile giornalistico, raccontare storie legate certamente al mondo Coca-Cola, ai prodotti, alle campagne Coca-Cola, ma anche storie che vanno al di là dell'azienda e che possono interessare ambiti più vari, dal tema della sostenibilità al tema dell'innovazione, al mondo del lavoro, mondo giovanile. Un patrimonio di storie italiane e globali, branded e unbranded. Quali sono quelle che hanno più, ce ne puoi citare un paio, quelle che hanno ricevuto più click? Beh, una cosa abbiamo capito, che comunque ai nostri visitatori online piace moltissimo la storia del nostro brand. In assoluto la storia più letta, più cliccata e più condivisa attraverso i social media è stata la storia della nascita del brand Coca-Cola. Poi ci sono state altre storie molto seguite, ovviamente la storia della nostra presenza in Expo, ma ci sono storie anche molto locali, tipo la nascita italiana della Fanta. Pochi sanno e pochi sapevano che Fanta Orange nasce in realtà in Italia come prodotto italiano. Oppure temi totalmente non brandizzati, come il tema del lavoro. Un articolo relativo ai consigli, a delle cose da fare e da non fare in un colloquio di lavoro nei confronti di un'azienda, è stato l'articolo non brandizzato più letto e più seguito dai nostri visitatori. Dicevamo, i brand sono i nuovi editori, quindi i contenuti, le notizie sono in qualche modo la nuova forma di pubblicità. Ecco, nell'era in cui tra l'altro esistono anche gli ad blocker, questo è un tema che sta emergendo molto nel mondo digitale, come cambia l'equilibrio a livello di strategie aziendali tra la comunicazione e la pubblicità tradizionalmente intesa e contenuti invece correlati al brand? Cambia soprattutto in termini qualitativi, cioè oggi l'integrazione assoluta tra i due mezzi deve andare di pari passo. Oggi sempre più l'advertising o altri strumenti di marketing più tradizionali devono avere al proprio interno una declinazione social e digitale sempre più completa e soprattutto legata a un tema di storytelling. Al consumatore e al cittadino, direi, piace il dialogo, e quindi aziende come Coca-Cola, certamente noi, facciamo della storytelling il nostro approccio principale, perché è un approccio che consente di creare e instaurare un dialogo, raccontare storie ma anche amplificare storie. Bicology. Dalla bicicletta, come andiamo ripetendo spesso, passa oggi tutto quello che fa tendenza. Nessun altro oggetto condensa in questo momento le istanze più innovative, ambientali e sociali. Oggi parliamo dell'iniziativa di Cortilia, primo mercato online di prodotti agricoli, che ha deciso di avviare la consegna a due ruote. Marco Porcaro è il fondatore di Cortilia. Pensiamo che possa essere un servizio utilissimo sia per noi nella distribuzione, sia per il cliente che riceve questi prodotti a casa in maniera comoda e in tempi certi. Primo mercato online di prodotti agricoli, ricordiamo da dove arrivano i prodotti Cortilia, qual è la vostra filosofia di base? Il mercato agricolo online, un mercato agricolo che in questo momento copre determinate aree del territorio italiano, in particolare copriamo Milano, Bologna e Torino. I prodotti delle rispettive città al 70-60% arrivano da produzioni locali e un 30% sono eccellenze nazionali o, in base alla stagionalità, prodotti che non sono reperibili sul territorio. Faccio un esempio, parliamo del Natale, parliamo di arance, e le arance arrivano dalla Sicilia, arrivano da un magnifico produttore biologico che ci fornisce ogni anno queste arance buonissime e che noi portiamo a destinazione dei clienti di Cortilia nelle varie città. Diamo anche un po' dei vostri numeri. Sì, Cortilia ha più di 100.000 utenti iscritti, facciamo migliaia di consegne alla settimana. Stiamo crescendo a doppia cifra mese su mese, siamo partiti da Milano, adesso siamo in 10 province e quindi stiamo espandendoci sul territorio italiano e stiamo crescendo sempre più, riscuotendo sempre più successo verso quegli utenti, quei clienti che vogliono fare una spesa consapevole, vogliono sapere da chi comprano, quindi per ritornare alla nostra missione vogliono ritrovare il gusto, l'artigianalità dei prodotti e una filiera corta e una sostenibilità anche nel modello distributivo. Quando siete partiti voi, la vendita di prodotti agroalimentari online era agli albori, c'era molta diffidenza, ora lo abbiamo detto, i numeri vi danno ragione, tra l'altro gli esperti dicono che il settore dell'agroalimentare è quello a maggiore potenzialità di crescita per quanto riguarda l'e-commerce. In questi anni hai trovato il cambiamento della mentalità, le resistenze stanno cadendo? Non in tutto il territorio italiano, quindi ti direi sì, ma c'è ancora molto da fare. Noi siamo anche molto contenti che ci sia molto da fare, perché vuol dire che ci aspettano anni di grande crescita sia per noi che per gli agricoltori che vendono tramite Cortilia. L'arrivo sul mercato di un colosso come Amazon, in Italia è partita con il grocery, ma prima o poi arriverà anche Amazon Fresh, quindi i prodotti freschi. Che cosa comporta, che cosa può comportare? Ma io credo che sia una grandissima opportunità per aziende come Cortilia e per il mercato dell'e-commerce italiano in generale, perché darà la possibilità di avere un nuovo operatore che evangelizza su questo tipo di spesa. E poi sarà cura di ogni altra realtà alternativa come Cortilia quella di valorizzare la propria offerta e quindi di far conoscere al cliente finale che ci sono altre modalità di spesa, che ci sono altre tipologie di prodotto che sono quelle che probabilmente non verranno veicolate da player o da multinazionali così grandi che hanno altri obiettivi, altre scale e altri tipi di posizionamento rispetto a un'azienda come Cortilia che ha come focus, ti ripeto, quello dell'artigianalità e la sostenibilità, la tracciabilità del prodotto e quindi quelle produzioni che meno si prestano a un modello distributivo mass market. Restate con noi perché tra poco parliamo di un bracciale smart che interviene in nostro aiuto in caso di emergenza e poi dal food sharing per condividere con i vicini il cibo in eccesso alla coprogettazione di quartieri. I consumi guardano alla dimensione iperlocale subito dopo la pausa. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Essere e Avere. Puoi anche piangere se vuoi. No, Il pianto è una naturale conseguenza del dolore. Non sto piangendo. Ora eseguirò uno scan. Non provarci nemmeno. Scan completato. È incredibile. Non hai riportato alcuna lesione. Tuttavia, i tuoi livelli di ormoni e neurotrasmettitori indicano che sei soggetto a sbalzi d'umore, comuni nell'adolescenza. Diagnosi? Pubertà. Si chiama Amico, è un braccialetto smart che non ha nulla a che vedere con il fitness, è un braccialetto elettronico di primo soccorso. La salute, dicono gli esperti, moltiplicherà i campi di applicazione delle cosiddette tecnologie indossabili, i wearable device che stanno già vivendo il loro momento d'oro. Riccardo Zanini è il cofondatore di WeCare, la startup che ha ideato Amico. Noi ci siamo concentrati fondamentalmente, a differenza dei tanti wearable device che ci sono oggi in commercio, non sull'acquisizione di dati biometrici tipo il battito cardiaco, come dormi o altri dati che comunque sono importanti, ma ci siamo concentrati sul dove mettere questi dati. Cioè, noi oggi abbiamo fondamentalmente un'esigenza che è quella legata al fatto che siamo molto in mobilità, quindi ci spostiamo molto, e abbiamo un'esigenza di avere comunque con noi determinate informazioni che possono essere utili in caso di emergenza, quindi da essere trasmesse e condivise con un eventuale soccorritore, ma allo stesso tempo sono utili anche per un utilizzo nostro quotidiano. Con che tipo di tecnologia funziona? Allora, funziona con una tecnologia che a mio avviso è al di là del geniale, nel senso, per due motivi. Uno, perché è una tecnologia molto, chiamiamola, a portata di tutti, nel senso che ha un costo molto contenuto, ed è la tecnologia NFC. È una tecnologia passiva, quindi non emette onde e rispetta, quindi non ha nessun tipo di problema di onde elettromagnetiche o altro, ma soprattutto il grande vantaggio che ha è che non ha batteria. Per farci capire, è la tecnologia dello ski pass, quella bravissima, del bancomat. Bravissima, è la stessa tecnologia che anche quella, per essere ancora più semplice, dell'antitaccheggio dei negozi. Quindi la tecnologia NFC è molto diffusa, tant'è che verrà utilizzata, ed è la tecnologia sulla quale è stato sviluppato il principio del pagamento contactless, che quindi è un'altra diciamo plus che Amico potrà nel tempo, perché la nostra visione non è quella di fermarci ad oggi a un semplice, chiamiamolo semplice, contenitore di informazioni, ma proprio quello di andare a creare dei servizi paralleli che permettano, proprio a seconda degli usi del lifestyle della persona, permettono di poter costruire e modellare il servizio di Amico in funzione di quello che è l'esigenza proprio quotidiana. Abbiamo dovuto e voluto dividere le informazioni che noi inseriamo in questo database in due categorie: informazioni pubbliche, che possono essere visualizzate appunto da chiunque abbia uno smartphone con NFC e lo avvicini al nostro braccialetto, e informazioni invece private, che sono quelle informazioni che invece decidiamo noi chi autorizzare a poterle vedere. Noi siamo partiti pensando ai bambini, proprio perché era un'esigenza, diciamo, che io avevo diretta e quindi era un po' la cosa sulla quale mi ero fissato, però poi nello svilupparlo ci siamo accorti che effettivamente questo prodotto è utile a chiunque, quindi è utile sia al bambino che all'anziano, ma anche alla persona adulta. Raccontiamolo allora le funzioni. Certo, allora Amico, come abbiamo detto, ti permette di condividere informazioni. Oltre a quello ti permette di fare anche tre cose. Uno è il servizio di direct call, che ti permette, abbiamo stampato un numero di soccorso, che è il nostro numero del centralino soccorso, sul braccialetto, e un codice univoco. Chiamando questo numero e inserendo il codice del braccialetto, vieni deviata la chiamata direttamente al primo numero utile che è stato inserito all'interno del database. Ad esempio, anche l'ambulanza, l'esigenza grossa che hanno, ci dicevano dialogando col servizio REU, è proprio il fatto che loro hanno la necessità, il primo possibile, di mettersi in contatto con un parente della persona che stanno soccorrendo. Quindi in questo modo, senza utilizzare nessun tipo di tecnologia, facendo una semplice telefonata, inserendo un codice, risponde direttamente alla persona riferita, inserita appunto all'interno del database. L'altro servizio è il servizio di self-help, che è un po' l'evoluzione 2.0 del telesalva la vita. E cioè, cosa significa? Che io con il mio telefono, avvicinandolo al mio braccialetto, loro due si riconoscono e il telefono, il nostro server manda un SMS alla persona, quindi al numero di telefono che io ho inserito sempre nel database, con scritto, in questo caso, Riccardo si trova in difficoltà ed è qui, con un link alla geolocalizzazione. L'altro servizio che, diciamo, ti permette di poter utilizzare l'applicazione di Amico anche senza aver acquistato ancora il braccialetto è il Medical Reminder, che è fondamentalmente un reminder, cioè ti ricorda di fare determinate cose durante la giornata con cadenze continuative. Questa cosa però non la ricorda solo a te, ma ti permette di poter creare dei reminder anche per terze persone. Il nonno deve prendere, non so, la pastiglia del diabete tutti i giorni. Io lo ricordo sia al nonno, ma magari lo ricordo anche alla badante, in modo che ci sia un controllo incrociato e di più persone, al fine di poter essere sicuri che questa azione venga fatta. Focus sui trend. Territorio, la nuova parola d'ordine nei consumi, superata l'antitesi tra local e global con la ricetta magica glocal, sempre attualissima, i consumi oggi cercano legami sempre più profondi con le aree di creazione, produzione e distribuzione dei prodotti. In certi casi possiamo addirittura parlare di consumi di quartiere. E allora ce li racconta Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Grazie a te e bentrovati anche ai nostri ascoltatori, buonasera. Da dove partiamo? Allora, io partirei proprio dal territorio più prossimo a tutti noi, il quartiere, che si sta rivelando fonte di nuovi interessantissimi servizi. Per esempio, a San Francisco è possibile saltare i passaggi intermedi nella catena della redistribuzione del proprio cibo avanzato con un'app, Leftover Swap, che mette in connessione direttamente le persone, consentendo di consumare gratuitamente gli avanzi di un vicino. Capita di acquistare o preparare una quantità eccessiva di cibo? Ecco che con Leftover Swap è possibile fotografare l'avanzo, postarlo nell'app con un titolo, per esempio un pizza, e aspettare di essere contattati per il ritiro. La ricerca si basa ovviamente sulla geolocalizzazione, che aiuta perché generalmente è meglio consumare in tempi rapidi. Ecco che però il quartiere può anche essere un laboratorio di innovazione per le aziende stesse. Nel giugno 2015 Leroy Merlin ha dato vita, in collaborazione con la service design company Logotel, a un percorso di coprogettazione che coinvolgeva i suoi collaboratori, gli abitanti e i professionisti del quartiere Lambrate di Milano. L'obiettivo dell'iniziativa per Leroy Merlin era quello di comprendere e mappare le reali esigenze di chi vive e lavora all'interno del quartiere. I gruppi di lavoro sono stati quindi accompagnati in uno proprio scouting del territorio per captare stimoli, conoscere case e iniziative, osservando quanto accade realmente all'interno dei negozi, ma anche fuori. E in 7 giorni, pensate, sono stati coinvolti 50 cittadini tra professionisti e commercianti e intervistate ben 100 persone. Dalla riscoperta dei quartieri, Luisa, alla riscoperta della città come territorio di produzione, il passo è molto breve. Sì, infatti, e talvolta il territorio urbano può riservare grandi sorprese. È il caso, per esempio, di questo caso per cui sotto le strade di Londra, dove un tempo si snodavano lunghe gallerie per proteggere la popolazione dalle bombe durante la Seconda Guerra Mondiale, qualcosa di davvero inaspettato sta crescendo. Growing Underground è un'azienda agricola di Richard Ballard e Steven Dring, fondata recentemente nel 2014, che produce a chilometro zero ortaggi a foglia, a 100 piedi sotto il livello stradale nella zona di Clapham, a sud di Londra. È una coltivazione molto sostenibile, tra l'altro, perché utilizza illuminazione a LED, cultura idroponica che tra l'altro consente di risparmiare il 70% di acqua rispetto a una coltivazione in superficie, e inoltre l'ex rifugio antiaereo ha un buon microclima che consente di non utilizzare pesticidi. Al momento i prodotti sono venduti al mercato di Covent Garden e in molti ristoranti londinesi. Anche questo è un bellissimo esempio, tra l'altro con un significato, se si vuole cercare, insomma, molto così filosofico, etico, no? Dalla guerra, la crescita di qualcosa di buono, diciamo così, no? Anche il mondo digitale cerca in qualche modo i microcosmi, chiamiamoli così, il particolare, il super locale. L'ultimo caso che ci segnali, che mi hai anticipato, ha a che fare con scenari molto remoti. Sì, esattamente. Questo è un caso dove natura e tecnologia insieme hanno creato un'esperienza quasi magica. Per il lancio della sua nuova collezione primavera-estate 2015, un brand svedese di abbigliamento sportivo Peak Performance ha lanciato questa iniziativa Magic Hour Shops, aprendo 15 negozi pop-up virtuali in 11 remote località del mondo, per esempio un'isola finlandese o la cima di un monte alpino. I negozi erano accessibili solo sullo smartphone e sul tablet ed erano aperti per chi raggiungeva questi luoghi solo un'ora prima dell'alba o oppure prima del tramonto, l'ora magica appunto, quando i paesaggi e la natura si rivelano in tutto il loro splendore. E i negozi virtuali non vendevano, ma regalavano un prodotto a chi appunto avesse compiuto questa impresa sportiva. E anche qui c'è un valore in effetti, Maria Luisa, perché si è trattato di una vera e propria convocazione per una sfida sui valori sportivi più autentici, condivisi dal brand ovviamente, cioè l'impegno per affrontare un'impresa fuori dall'ordinario. Siamo in chiusura, Glocal, ma non solo, lo dicevamo in apertura, questa nuova dimensione dei consumi racconta anche qualcosa di più. Ecco, a quali concetti fa riferimento questa tendenza? Pur tenendo nella giusta considerazione ancora la relazione tra locale e globale, con questa tendenza consideriamo soprattutto la valorizzazione, la comprensione delle caratteristiche identitarie dei territori, analizzando le potenzialità convocative. Quindi la cultura del luogo e la sua unicità, il genius loci, diventano elementi di sperimentazione e le caratteristiche storiche, geografiche, culturali, economiche, sociali, uniche e talvolta irripetibili dei territori sono gli elementi più utili per progettare nuove formule di distribuzione e in fondo evitare anche un'eccessiva standardizzazione. Grazie Luisa, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Il consumautore. Diamo subito il benvenuto a Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Maria Luisa, buonasera. Questo è il momento in cui ci interroghiamo, riflettiamo sui fenomeni, i cambiamenti, le ispirazioni che ci arrivano dal mondo dei consumi. Il tuo spunto di oggi? Il mio spunto di oggi è fringe. Fringe è un termine inglese che significa frangia, è anche la frangetta dei capelli, ma è soprattutto frangia intesa come periferia, no? Come qualcosa che è alla periferia delle cose. In realtà la dimensione periferica sta diventando sempre più centrale e importante, e questo viene riportato in un bel libro di Perniola che si chiama Arte Espansa, in cui viene raccontato il modo nuovo di vivere l'arte attraverso queste frange, quindi ognuno di noi può diventare un artista. La contaminazione tra arte e consumo è uno degli effetti di questa trasformazione dell'arte. Sì, perché nel momento in cui ognuno di noi diventa autore di un progetto, da cui anche consumatore, insomma, diciamolo, no? Questa rubrica. Nel momento in cui diventiamo autori, siamo in grado di giudicare, di criticare, e quindi il critico d'arte, quello classico, viene un po' messo in disparte, perché ci sentiamo in grado di capire i consumi giusti e anche le cose giuste da fare nella nostra vita, anche quelle creative. In questo processo di democratizzazione che abbiamo raccontato più volte, Francesco, per molti saperi, molti settori, non tutto il pop viene per nuocere, tu ce l'hai insegnato più volte. Sì, no, io credo che nel pop ci sia un'energia, esattamente come viene nella musica, che dobbiamo rivalutare, rilanciare, avere molta meno diffidenza per ciò che arriva dal basso. È chiaro che bisogna poi distinguere, quindi non tutto il pop viene per nuocere, ma neanche tutto il pop va in paradiso, no? Dobbiamo imparare a distinguere. Grazie a Francesco Morace, grazie anche in regia a Gianmarco Ferronato. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.